Prova radio 1, 2, 8. Franco, ci sei? Yeah, ciao Gabri. Ciao Anto, buonasera. Buonasera, mi ho fatto un colpo di portata. Entro un attimino in bagno e arrivo. Ok. Ehi, sono qua. Sono qua. Vediamo se c'è qualcuno. Franco, buonasera, ci sei? Tino, sono in radio. Eccomi qua. Io. Ma eri tu la portante, non tu? Ho detto, eccomi qua. Sì, sì, sì, ma eri tu adesso la portante, due secondi fa. No, sono entrato in bagno. No, perché c'era una portante bassa a bassa. Ho detto magari era qualcuno che voleva entrare. Ho detto magari era qualcuno che voleva entrare. Allora, tutto ok? Tutto ok, tutto ok. Uia, dimmi. Oggi tutta la lì in giro, fendi commissione, vendi chissà che d'altro. E poi sono andato a lavoro. Ui, ui, ui. È meglio così. Io oggi ero libero. Per modo di dire, perché stavo facendo qua, sono uscito stamattina a fare un lavoretto, però poi ero a casa. Facendo in campagna. Ui, ui. Ma cosa c'è tu terreno? 7.000 metri ne ho di terra. 7.000 metri. Allora pianti, fai quando c'è il tempo libero, no? No, no, no, no, no, no, no, altro. Cioè, mi faccio l'orticello per me, ma niente di eccezionale. Niente di eccezionale. Mi sono visto io. Perché poi magari non riesci a seguirlo in alcuni periodi. Vabbè, qualche cosa per te ti fai, boh. Perché è un po'... In certi periodi non riesci a seguirle. Sì, qualcosina la metti, ma non ne vale neanche la candela, perché tra seguire tutto, piantare, soldi di acqua, tempo che metti, e lavoro che ci vuole, fai prima a trovare uno che ha l'orto che pianta roba e sai che pianta, diciamo fa produzione propria, conviene andare a comprarlo, perché se tiri due somme non ne vale neanche più la pena, capito? Tu dirai che con 2,50 coltivi 12 finocchi, quello è vero, però la cosa vuole lavorata dopo. E... sembra così, ma acqua, concime, tutte quelle cose vanno comprate. L'acqua la paghi il concime, paghi, vabbè, concime io uso quello animale, non ne uso roba chimica, però è un lavoraccio, c'è un lavoraccio, devi essere libero, starci appresso e queste cose qua, allora, però si conta lo travaglio, non ne vale la pena. Logicamente, se uno lo fa che... Per esempio, se uno va da un pensionato che non ha soldi va, ci sta anche, magari mangi il tuo prodotto, ma te lo vai giù su te. Se invece non hai tempo di seguire la cosa, allora è una cosa diversa. Non è il fatto, pagare il tempo già si trova, perché la sera come rientri, oppure... Però è che... cosa fai? Non ci sono neanche più stagioni, pianti i finocchi e nacogli un paggio, biglie, pomodorini, devi stare a pulirli, passare rasa erba, togliere le erbacce, annaffiarli, ui ui ui. È tutto... intanto con una famiglia, io, noi siamo in tre, cosa mangi, cosa ti mangi, due socchi di bummatta, e cosa sì. Beh, vabbè, pure tu hai ragione, andai a Orticello, chi lo fa per mestiere, va a tirare un pareggio e fai brimma. Ma esatto, ma sto facendo così, infatti, ho piantato qua, ho piantato melanzane, un anno ho piantato 35 piante di angurie striate, 35 piante di quelle angurie nere, melanzane, peperoni, fagiolini, fagioli per minestrone, tutto quello che si poteva piantare, patate. Le patate le ho dovute raccogliere piccole, perché altrimenti poi venivano punte, dovevi buttare le patate che ho buttato perché erano punte. Ma alla fine ho detto, ma chi me lo fa fare a zappare, a interrare, a fare, oi, oi, oi, oi. Da sapigli, dice sono buone, tutto quello che sono buone, sì. Però il fine è la mia, buono. Hai ragione. E la sindria come è venuta, grande? Non ho mangiato una sindria, non ho mangiato un'anguria perché le cornacchie, le ho messo le cassette sopra, la cornacchia diventa di bulu vuiba, sentra lo gabbo da sotto la gascetta per il bicuriteggio, capito? Le cassette con la pietra sopra, prende, si fa lo spazio col muso e prende e le bicuriteggiano la tessi, quindi è un casino. Ecco, tu una fusilata che il culo della fusilata la mazzina viene a 40 miliardi, cosa vuoi fare, tutta i fusili in mano, che animale feo che. E poi l'anguria vuole molta acqua, una volta che lei prende, c'è già lì che è grandetta, vuole molta acqua, devi stargli appresso. Non devi farla toccare a terra perché altrimenti piglia e fa rugoso, devi mettere la pietra sopra, ma sotto, io non ne ho tempo di farlo, magari là non ne ho messo anche troppe, però giusto, su 35 piante, 3 anguria me le posso mangiare, non ne ho mangiato una, le melanzane non sono uscite, perché non ho concimato niente, capito? Secondo anno ho messo il concime e qualcosa è uscita, ma alla fine concimare non, cioè per comprare con la roba, per piantare la roba concimata, tanto vale, me la compro. È andata proprio male, cazzarola. Vai. Io mio ho molti alberi di arance, ho mandarini, ho fichi, ho olive, ho le mele quelle sarde, ho quella roba lì già la raccolgo, limoni, quella roba già la raccolgo, però a piantare è un caso, poi io ho i cani, poi ho i cani e fa sbiglia, c'è di cavendi, fa di dire di tutto. Allora la capite, ti tieni gli alberi qui. Ogni tanto un poco d'aranzo, un poco di mandarino, di mele e via, boh, finito. Sì, perché poi magari fai, c'è quello che c'è, pomodorini vicino a casa, e fai lo scambio, capito? Magari viene troppo di pomodori, biglie, gli dai un po' di fichi, ma i fichi loro non ne hanno, perché io ho quei fichi neri, quelli che escono grandi, e fare scambi così, capito? Fica d'India andai. Anche i fichi d'India ho anche tre piante. Bugia, di più ne ho di tre piante, ce n'è una in produzione che ne fanno proprio belli, sono tre piante, però già ne ho, ce ne saranno solo sette piante. Ho un albero di pesche, un albero di albicocche, erano tre, e poi ho le susine, la bruna, ce n'è, e i melograni. Stavo ficando in chiamo, mi piace un po' a me, quando ero un periodo, poco un anno ma come. I fichi d'India, per esempio l'anno scorso non ho raccolto perché non erano Allora, vicino alla confinante con me, c'è uno che ha un albero di pino. Un albero di pino che secondo me ha più di 100 anni, perché c'è una signora qua anziana, una signora di Pattada, che abita confinante con me, e una volta mi ha detto che lei è venuta qua a più di 50 anni fa e dice quest'albero era così grande. E ammazza tutto quello, perché ammazza i limoni che c'ho sotto, a voi va radizi, solo che non lo puoi toccare perché quando sono così grandi sono bruttiti, capito? Figlia, pure una motosega, a Puglia che anda, vai, ui, vabbè, 1, 2, 3, 4, badabum, cadutone. Non è così, Antuno. Antu, qua non è così, perché se cade quell'albero fa danno. Mittino l'ha visto. Antu, se cade quell'albero fa danno. Chissà, pure 30 metri. Al tronco, il tronco, la circonferenza, è spaventoso. È spaventoso. E non è a chi suo piglia, due. Chiesto l'autorizzazione, è fatto abbattere, diciamo, è messo in sicurezza, perché quello lì sotto il pino radici non ne ha, cioè ce le ha ma sono superficiali, capito? Quindi bisogna stare anche attenti, perché non è così. Poi se lo abbatti da una parte c'è casa mia, se lo abbatti dall'altra c'è casa del proprietario. Se lo abbatti alla destra mi chiudi tutto tanto in terra, perché ci sono alberi da frutto di questa signora. Alla sinistra c'è la strada, quindi non è così, è un lavoro che vuol fatto bene. Io pure a voi puglia dopo, piano piano, e poi pampa da terra, perché ci vuole tempo per fare quella cosa lì. Ci vuole tempo. E ci vuole anche attenzione, vuole pian piano, come hai detto tu, sì, spogliato, e poi una volta che lui è proprio nudo, ma che c'è solo il tronco, ho preso, ma avevo motosega buona, ci vuole motosega buona, perché non, soprattutto motosega grande, perché non è una cosa che butti in terra così, questa qua. Grande, enorme, dunque, no. E secondo me se ne chiude in terra di Sebolo anche qualche punto in più d'antenna al recupero. E già lo credo, già. E se non agganza lo scavatore, vedrà che ne rampe. Vedo, quando è tutto impugnato, vedo agganzato, mi tra. Quello è secolare. Questo qua è un pino secolare, ma non credo che siccome è anche segnalato dalla forestale quest'albero, io non lo so, non ne sono sicuro di quello che sto dicendo, però quando sono così grandi sono tenuti d'occhio, cioè viene notato, capito? Poi una domandina, cioè se intervengono i vigili del fuoco e dicono che quest'albero è pericoloso, allora lo abbattono, però cosa ne so, è grande. Sì, ma secondo me se pure i noghi ne avevamo uno, i noghi hanno detto che hanno fatto la domanda e cosa, che però questa cosa è sempre crescente e sta sempre crescendo quest'albero. A di chi ne farà ne rubarazzo fa un danno di che manco 4 accusa. Perché poi finché un altro tipo di albero che la radice va a fondo, ma il pino la radice va proprio superficiale, ma è proprio superficiale. A cadini non è gali, però rovina tutta la piantagione, che è bello perché fa ombra. Io ho un pezzo dove c'ho tutto aghi di pino ed è un casino. però che va a finire anche sopra un albero di limoni. Ma va, dimmi tu, a vera prima, no, a piantare un limone sopra l'albero di rubino. Beh, le mandarini e cose, ci... guarda, la voce non si comprende la cosa delle bassoni, intelligenza. Veramente. E cosa vuoi che ti dica? E che c'è cosa? Hanno domandato, hanno fatto. Tra di me ha giudito. Per uno che fa più di 1.000 euro a Balampannino. Non hanno domandato. Che sarebbero che vengono, che dentro un giardino, ma devi di cantearsi. È tipo un albero di. Dici che è un albero è, io dico che sia pino. Però dici che non è pino, è una sabbianta che ha un nome particolare, ma è altro che un albero di rubino, però è altissimo quest'albero, è più alto di un barazzo. Sarà qualche salice. È una cosa del genere, me l'ha detto che cos'è. Io la verità abbia affittato uno di questi camioncini, con la gru, cioè in un mazzano non abbia lampato tutto, con la scala aerea. Beh, quello dovete essere voi di lì a decidere, però già sono belli anche gli alberi, ma messo in sicurezza l'avrei lasciato, intanto cosa, l'avrei messo in sicurezza. O se no potato, abbassato, ho fatto le cose, poi lui già richiama, già escono di nuovo i trucchi, e ha voglia. Vabbè, chissà che un giorno si decidano. Vabbè, certo il giorno che mi crea problemi a me, gli ubiglio, vado dai pompieri, faccio una denuncia e non me ne affutti nulla. Dico, quest'albero mi sta rovinando tutto. Intervenite voi o attacco la motosega e piano piano di pitturari. Ah no, si fa un giastello come oh, yeah. No, non ha già bisogno di giastello, cos'è tanto un piccuveio, non è solo altezza, io prendo, mi appendo bene bene, mi metto la cintura come attaccare a terra, taglia la motosega e pittà trunchi, vedi, la già motosega, io ce l'ho grande la motosega, non è buonissima, però a costo di comprare due o tre cadene, la gente lo vostro. Eppure io laggio manna, laggio. E la ce l'ho io le motosega, la ce l'ho io le motosega, proprio per quello non è un problema, il problema è che queste cose qua vanno prese e vanno dichiarate. Quando lo stai facendo devi forestare, perché ti ripeto, sono protetti e c'è una denuncia penale, neanche per un omicidio ti fanno quello che fanno se tagli un albero del genere. Bisogna fermarsi a vedere se è come ti è registrato, se non è registrato non era alzato tipo Tarza, ne aveva lampato quanto è. Vabbè, dove manco ombra mi vado, a me a chi la vado in casa Teddy, se no vi ho assato, ma ne manco ombra a vado. Mamma mia, canto li odio questi cose, mamma mia. Ehi, vabbè, no, che mi sta rovinando degli alberi, c'è un albero di limoni sotto, un albero di mandarini bello, un albero di olive a confetto che non prende sole, quindi... Cioè arriva a mezzogiorno non c'è più sole, a mezzogiorno l'uno non c'è più sole quegli alberi. Quindi ne prende tutta l'acqua da sotto, se le va che assorbe su cosa? Già me lo posso immaginare già. E vabbè. Quindi non c'è Franco, non c'è Tino. Vabbè, Tino sta cenando. Franco non lo so dov'è. E Pomponi non si è più sentito. Ma per il danno. L'ha giubisso oggi, l'ha giubisso. E cosa la vendi? In giro era. ha fermato Eltra. Progaridati. Antonello, via. Tu non hai patente, Anto. C'ho il foglio rosa, posso guidare. C'è il foglio rosa, te la stai prendendo? Sì. Tu guido la moto, boh. E piglia però la patente, piglia che... che già, caspita, una volta che ce l'hai capisci il valore della macchina. Se ti prendo la macchinetta, però per la famiglia ci vuole una macchina per spostarti, per fare. E boh, la patente è sacra. Sì, ma è per la famiglia. Se fossi a me, andavo la moto. E aspassai. Ehi, Antu, ma caspita, ma non è... cioè... già ci vuole la macchina che prendi a casa una sera, io a farci un giro, io e c'è la macchinetta tua, poi se una cosa, vedrai, biglia ed esce e fa, io a Vuglia. Quanto viene oggi una patente? Ho capito. Quanto viene? Ma sto uscendo male, Ferrari. No, negativo. Boh, non mi ricordo quanto ho speso. 600, 700 euro. E di più. Ma vai. Cioè, un migliaio di euro. Dipende quanti guidi vai, me. Stai facendo le guide oppure devi dare esame di teoria? La guida? Beh, se non passi l'esame di teoria, non puoi guidare la macchina. No, poi tu ti devi iscrivere, ti danno il foglio rosa e puoi fare le guide, Antu. Sì, un sogno, non è più così, no. Tu prima devi passare la teoria, dammi un tocchi la macchina, se no macchina non è docchi. Ma vai, prima appena ti iscrivevi a prenderti la patente ti davano subito il foglio rosa e potevi guidare con uno a fianco. Adesso non è più così, adesso dopo che dai l'esame di teoria è che puoi guidare. Abbai, dammi. Certo che sì, se no te la sogni. ti sogni la teoria, cioè se non passi la teoria foglio rosa te lo sogni. Non lo sapevo questa cosa. Proprio non la sapevo. Lo vedi, sta cambiando tutto. E quante te ne mancano tu? Purtroppo è successo quello che non doveva succedere, adesso sto rifacendo le guide e poi che Dio ci avanti buona. Sì. Stai attento ai tranilli. Capita quando ho preso la patente io, lo so cosa mi ha fatto l'istruttore, l'esaminatore. C'eravamo io una ragazza seduta dietro, e, diciamo, l'istruttore di scuola guida e l'ingegnere dietro. Lo so cosa ha fatto. Quando stavo partendo, perché ha guidato questa ragazza, ci siamo posteggiati e lui aveva questo giornale in macchina che ci aveva, lui ha preso. Quando ha preso e sono passato davanti a guidare, e lui si è messo al centro, si è seduto al centro e mi ha aperto il giornale, no? Il giornale era la nuova Sardegna. Io come ho preso e stavo andando, mi ho messo la cintura, prima di partire ho guardato, mi ho regolato gli specchietti, ho visto dietro, ho fatto scusi, mi può gentilmente chiudere il giornale che non vedo lo specchietto retrovisore. Ha pigliato, ha detto ah sì, mi scusi, ha preso Antu. Sono partito, ho messo freccia, sono uscito dal posteggio, sono partito, prima, seconda, ho fatto 200 metri, 300 metri, c'era un posteggio, ho detto posteggi qua, giubilato, qui c'è un bucciame, ho guardato, mi sono fermato, ho messo freccia, bugia, mi ha detto come trova un posto dove può proteggiare, metta freccia e poi faccia la manovra. Ho guardato e ho messo freccia. Sono andato a posteggiare, c'era lui con la testa al centro, ho detto si può mettere da una parte perché non vedo per posteggiare. Ah ok, ho fatto la manovra, ho posteggiato, va bene, venga a firmare. Presa la patente, capito? Se partivo che aveva il giornale aperto mi bocciava. È un cordone, per carità. Lui poi buchi sì. Ti fatene in fa, un bel di cose metti fatene in fa, ti fanno girare. Ti butti in brucchio. E soprattutto devi guardare alle ripartenze, gli incroci, le rotatorie, le cose, se no ti crepa, non mi frega niente. E vabbè, quello anche prima tu. Però bisogna stare attenti a queste cose. Loro cercano di metterti, ma non neanche di fregarti, vedere se sei attento, capito? Perché c'è gente che dall'emozione, dall'ansia. Mia cugina ha trovato l'ispettore bravo, era ansiosa, ha avuto un attacco di panico, ha detto va bene, si sieda, rimanga seduto un attimino e ripartiamo quando sarà assente. Ha preso, l'ha fatta, l'ha tranquillizzata, sono partiti e gliel'ha data la patente, capito? A un altro amico mio l'ha fatto, l'ha arrivato a 150 metri retromarcia. Animali. Bisogna stare molto attenti. Ti piglia l'ansia se butti tu, A me mi ha detto che non ho guardato, ma... Non hai guardato cosa? Ma perché ti hanno bocciato? Guida sì. Secondo lui ha detto che alla ripartenza non ho... La cosa mi ha fatto sto bastardo. Mi ha detto può ripartire, mi ha detto si fermi e riparta. Io ho dato una... ho guardato così al volo. In quel frangente lì mi ha fottuto. Quando ti vedono anche troppo sicuro, capito? Sicuramente ti ha visto troppo sicuro di quello che stavi facendo, ha detto sciavi dei vigili. Lo fanno quando ti vedono troppo sicuro, Antu. Tu devi pensare che devi riflettere, fermarti, stare tranquillo. Tanto una volta che ti va devi mai pigliare da me. Adesso ridatti l'esame, stai attento. Così è già un punteggio in più, la patente è già un tocca sana, ti risolve mille problemi. Non vedo l'ora qua. Perché hai molta più possibilità di lavoro, dicono le patente, cioè già quando ti presenti a un colloquio ti dicono patente, non ce l'ho. Di lì è un po' un problema, però quando uno c'ha la patente può pigliare, caspita, ti fai un lavoretto, ti pigli un furgoncino, ti vai ai viaggi due, ti vai, dai, è diverso, puoi andare a lavorare fuori da Sassari, hai più, tu dici ma ho la moto, ma noi usi, o c'hai una moto grossa che ti puoi spostare come vuoi, o altrimenti... la macchina è diversa. No, ho detto, per me, guarda, per spostarmi in città, a me mi va bene la moto. Per spostare la famiglia, purtroppo devo usare la macchina. Ma è per quello che si fa, tu. E poi, cioè, in città, puoi fare commissioni, ma, santo, un uomo ormai senza la patente, dai, non si può ai giorni d'oggi. Si poteva fare 30 anni fa, 40 anni fa uno senza patente, ma neanche. voglio ci vuole, tu voglio ti metti di mettere l'impegno, ti devi fregare, piglia a dire, e poi piano piano già arriva tutto. Il coso è che le assicurazioni delle macchine sono care, vai a fare un passaggio di bollo, revisione, tu considera che io ogni anno ho tre bolli, tre revisioni, cioè tre bolli, tre assicurazioni. Uia, uia, uia, uia. Abbaida, no? Questo mese assicurazione di un furgone, revisione della macchina, gomme della macchina, tagliando della macchina e tutte quante le altre cose, no? Quindi solo di olio che io gli prendo l'originale, olio, filtro olio e filtro dell'aria, 90 euro. Quindi di rotto? No, me l'ha fatto un amico e mi ha trattato bene. L'ho portata in officina e l'ho portata da un amico e mi ha trattato bene. Però è capitato anche di avere la roba e tutti e due i deli, capito? Più la macchina. Oh, capita, a me sono buoni di nami. Il bollo il deli paga 36 euro l'anno perché è autocarro, fai 36 per 2, poi fai le assicurazioni, la revisione ogni due anni, però i tagliandi, le gomme, di gomme nel gemellato ci vogliono 1300 euro. Me lo posso immaginare, guarda. Adesso chiedo per la moto a vedere quanto ci vuole di bollo, perché lo vorrei pagare. Pagali tutti, tanto lascia perdere chi dice non pagare niente, pagali perché poi arrivano, Poi arrivano, tanto pagali tutti, perché un domani intanto non si scappa, pagali. Io ne avevo due arretrati di una macchina di un po' di anni fa e mi sono arrivati e me li ho dovuti pagare con tutte quante le more, le cose, perché altrimenti si rivalgono su quello che hai intestato. Non è il mio caso, però si rivalgono tanto. Detto proprio da perché mi sono informato, mi hanno detto pagali perché poi si attaccano a tutto, poi ti dinni, ti uno anche alla volta, però pagati. Io purtroppo la macchina non li ho potuti pagare perché se occupava, non va via Medina, se ne occupava mio padre, andava a tirare la rampa e via, non me ne ha fatti nulla. Purtroppo sono dei bolli da pagare, però io tutta quella cifra non la posso pagare perché non ho la possibilità. O pago quelli o non mangio. Purtroppo non ho il lavoro fisso, roba intestata, c'ho solo quella macchina e la moto e boh, non ho altro. Quindi cosa me ne buono in via? Che macchina è, Anto? Appunto. E perché non te la tieni tu? Ma che tagata è barrata, lascia perdere. Ma cos'è l'appunto prima serie? No, è quella, la terza serie, il multijet, ma è tutta fasciata, me l'ha cribata, babbo. Ma vai, l'appunto 1300, ma cos'è, 1300 multijet? Sì, già. Ma è fusa? Non mette in moto. Non mette in moto perché è fusa, o lo mette in moto perché ha problemi e basta? Fusa, non è fusa. Cos'è, 5 porte? 3. Io non l'avrei demolita quella, Mantù. Un consiglio da uno scemo, lo vuoi? Io non l'avrei demolita. Che cribada, carrozzeria è giù. Frase di carrozzeria. E cuta. Tante cose a voi ti dico. 1300 multijet, terza serie, già quella con i fari un po' ovali, no? Sì, già. E ce l'ha mio fratello, quella lì, come seconda macchina, uguale. Grigia, grigia. Boh, se tu ritieni che vuole buttata, butta, altrimenti non... altrimenti io l'avrei messa a posto piano piano e l'avrei tenuta. Penso magari quel motore lì tocca la catena, perché quelli sono a catena. Devi vedere un po'. Si la rampa e bu. Eh. 60. Quando costa per demolirla? 70 euro mi sembra. 70 euro. Il soccorrone me ne ha domandato 120. E chi? 100. Però magari viene a prenderla, col carro attrezzi. Eia. Viene a prenderla? Sì, sì, viene a prenderla. Sa appena che ho un po' di soldi vado alla demolisco. E Antu, quello è del carro attrezzi, poi tutta la documentazione. E niente. Quella lì... Chissà chi si raddene, viso bulli da baga è un problema. Beh, è un problema sì. Sono a cosa dall'invoco, no, capita dall'invoco. Tanto è peggio. Tanto è peggio. Oi, oia. Faccio un attimino di bianco, Anto. Riprendo subito. Eia. Ed eccoci qua. Eccomi qua. Non c'è entrato Tino. Tino, e beh, nuda. Ma sì, che stasera è cracco. Anche Franco, anche Franco. Beh, adesso 10 minuti e me la svigno. E me la svigno. Oioioioioia. Guarda, di questo amplificatorino qua sono contento. No, è mudo, niente. Una cosa è, che marca è? È piccolo, è un Amtron, si chiama Amtron. Si chiama Amtron UK 370. Così a valvole normale. A valvole Antu. Ha una valvola. Ha una EL519. Ha una EL519. Lo danno anche per la M, però lui a quanto ho capito, letto nei forum, è stato fatto solo, cioè va molto bene in FM. Va molto bene in FM. È del 1976. Ammazza di ore, qualche anno. Ma quella lì non lo monta anche il 747 con la valvola, non sbaglio. No, il 747 è a transistor, è a MOSFET tanto. Oh, scusa, il BV131. Sì, però il BV131 è più spinto. Il BV131 può andare anche in banda laterale, questo qua in banda laterale non ci va, capito? Non è fatto per la banda laterale. Infatti non ha nessun tipo di commutazione, niente, non c'ha lui. Lui è stato fatto per FM AM, però in AM non è consigliato usarlo, dai. Vabbè. Comunque già va bene lo stesso, magari. Già funziona bene, da. Mantenga sempre la piccola, cioè quella, diciamo, piccola, vabbè. Sì, qua ho sempre quella 5 ottavi, quella della Sirio. sempre la cipotavi dell'Assirio. E niente. Mi ho costruito una Delta Loop per la, diciamo, per la 27 MHz. Ha il braccio orizzontale è 2,90 m e due bracci, gli altri due bracci, quelli verticali, sono 8,40 m l'uno ed è accordata sul canale 40 e 1.1, ce l'ho collegata all'ICO. La deve girare, come funziona? No, l'ho puntata, l'ho provata stasera con Giulio. Poi ho il dipolo dei 40-80 metri, tu devi vedere, allora, copiavolo, al Giulio lo copiavo meglio, perché oggi stavo usando il 450, ero con la Grazioli, e mi arrivava un po' in mezzo al QRM, perché c'era un po' di propagazione. Ho commutato l'antenna e lo ricevevo col dipolo zitto segnale 9. Innorabona. Così basso ti arriva? No, con la Grazioli mi arriva 9,20. Però Giulio c'è con 2 watt. Era in bassissima potenza. E mi arrivava con la Grazioli 9,15, 9,20. Mentre col dipolo segnale 9. Beh, è una polarizzazione di emissione diversa, eh. Lui è in verticale, io ero in orizzontale. Cioè, allora ci sta, dai. Magari sarebbe stato puntato verso di lui anche 9,30, ti poteva arrivare. No, non ci può arrivare 9,30 tu, perché è una polarizzazione diversa. Capito? È una polarizzazione diversa dall'antenna. Io con la Delta Loop l'ho polarizzata orizzontale perché ho deciso così, perché è più zitta. In ricezione proprio non hai QRM di niente, mentre lui trasmetteva in verticale, e quello lì è proprio un altro tipo di emissione. Come stiamo trasmettendo noi adesso, capito? Ho capito ora. E poi, però adesso è smontata, ho anche la direttiva, una a quattro elementi, una direttiva, non mi ricordo se o Yagi o ProSystel, non me lo ricordo cosa, che marca è. Una a quattro elementi, è grandetta, 8 metri, no bugia, è 6 metri di 6 metri di direttore, il boom è di altre 6 metri, mi sembra 6 o 8 metri, Ora mari. È grande, adesso ce l'ho smontata. Quella la piazzo d'estate, quando c'è propagazione. A scheggia, con quella lì se punti bene, perché quella lì c'è da pentarti col rotore. Guardi il segnale, quelli che stanno arrivando e li chiudi di chicchiata, lo sai quando arrivi. Se sei in orizzontale sì, è normale. Ma io quella la metto in verticale anche. Io la metto anche in verticale quella direttiva. Ti mando le foto. Io la metto anche in verticale. In pratica gli imprendo e gli faccio il... Quando la metto in verticale, l'isolo il palo perché si va in contrasto con i direttori e col direttore, con il, diciamo, con il radiatore, e quindi mi porta alle stazionarie, sale stazionario è un casino, invece isolandogli il palo non gli fa non riflette Ma in verticale, è una scheggia a velo, mi tanto. È una scheggia. Ma lo posso immaginare. Solo che è troppo manna, pure la in verticale è troppo manna. Proprio troppo manna. Quella me l'aveva regalato un amico. Quella me l'aveva regalato un amico. Sì. Poi, stamattina ho trovato, ho buscato anche un bel palo. Un bel palo in alluminio. 5 metri. Grosso 7 centimetri. Capita, un abbaro. Tutto in alluminio. È bello robustino, Però è leggero leggero, è tutto bello rinforzato dentro con le pieghe, dai, è un palo buono. Stamattina, infatti, quando la giù ha detto, capita che sono visati il furgone, invece da giù questo Trento, giusto c'è stato in obliquo, giusto c'è stato. Andiamo già. Tu non hai modo di metterti un coso di lì, no, un dipolo. Ma sinceramente non mi interessa. Mi basta la verticale, boh. Non mi è mai interessato. Sì, se voglio lo metto sul tetto. Io l'avrei messo. Tanto io l'avrei messo un bel dipolo. Un bel dipolo orizzontale. Anche a mezza V invertita. Poi se te lo tari bene, lo fai 1-1 sul 20 e te ne togli il gusto. Sembra così, però già quando c'è propagazione, tu dici, quando c'è propagazione c'è la verticale, però il direttore, se c'è qualcuno che trasmette in orizzontale, ti diverti perché ti dà soddisfazione, capito? Sì. Io ho voluto fare una calata solo e volevo, era l'intenzione mettermi le due antenne, ma per questioni di coso ci lascio quella per il momento e boh. Ma dove abiti tu, Anto? A Latte Dolce. Latte Dolce è un po' gumanno. Piazza Botte, come si chiama Osert. Piazza Botte, piazza di vicino al Osert. Ma dove c'è l'ufficio del collocamento? Sì, a Bissobra. Più in su. Ma dove c'è Gio Maria? Dove c'è il Conad? Gio Maria è più su di me, io rimango più un po' più giù. Esatto. Ah, ho capito. Ho capito dove abiti. Ho capito dove abiti. Boh, no, vabbè, io non ci faccio caso. Molto alta c'è l'altetto l'antenna? Già si vede già. Ma è molto alta l'altetto? 4 metri di palo ci sono, è buono. È buono. Tanto ne vuoi buoni? Tanto ne vuoi buoni? 4 metri di palo è buono. Poco di bari. Vabbè, non tutti i 4 metri ci saranno. Vabbè, fai che sono 3 metri e mezzo, qualcosa. Vabbè. Meglio di niente, Antu. Meglio di nulla. Non c'hai né radiale né niente tu in quella, così è. Nulla. È così, è fatta così. Per l'isolata bene. Poni una graziuli in chivi, Antu. Ti prendi la graziuli come questa che c'ho io. E ti tolgo tutti i pensieri. La fai una volta. E basta, finito. Era un mezzo intenzionato. Ma non perché ha più punto, non è perché più per i materiali, mio, tu. Però è molto vistosa, è un'antenna che è un be vistosa. Un be. Capita, è un casino. In città, vabbè. Capita, c'ha 2 metri, i radiali sono 2,75 metri l'uno. Non so, io stavo pensando però di prendere quella senza radiali. E allora prendi, adesso non so che antenna sia, non mi ricordo la marca, però ce l'ha Claudio, Cau, che abita su a zona alta di Sassari, la 7 ottavi, se non sbaglio, mi pare sia di Zimetris antenna. E lui ha detto che è molto molto molto performante e dice che è un treno. No, volevo la creazione, la V10. La 10V. Quella che è senza radiali, volevo quella. Beh, sì. Io è che... Mamma mia, non ne voglio spendere soldi perché non ne vale. Guarda, non c'è il tanto, perché altrimenti mi avrei preso la G-Max, che in pratica è come quella che ho io, però un po' più lunga, con la carica al centro dell'antenna. Sì, lo so. Io volevo mettere quella lì, a me mi sarebbe andata bene, perché strutturalmente è buona. E tu stai dicendo la G-Pull, stai dicendo? Cos'è quella di Claudio, la G-Pull? Ce l'ha avuta per un periodo, poi l'aveva venduta. No, Claudio, non Sparviero, no, Claudio Cau. Abu, non lo conosco. Mi sa che c'era lui, eh. Mi sa che c'era lui quella, 7 ottavi, capito, in antenna. E anche quella grazia dove stai dicendo tu è 10 metri, anche quella lì in me. Cos'è l'antenna, manna? Mi son bene di mettere l'antenna in Siddaime. No, non è 10 metri di altezza. Ehi, non è 10 metri di altezza. Vabbè, davvero quanto misura? 10 metri e 80. Quella senza radiali, non è una 5 ottavi. Ehi, quella lì. Guà, c'ho il telefono in cucina. 10 metri... non mi ricordo se è 9 metri e 80 o 10 metri e 80, ed è senza radiali. La 7 ottavi, guarda Dio, se lo stesso mi sembra che sia. No, non è quella, no. No? No, no. È come questa, però è più strutturata bene. Ho capito. Un bel se le fanno pagare, però sono fatte bene, però se le fate in baga un bel, quella che mi voglio prendere io viene 400 euro, cioè capita, un bel di soldi. Ma secondo me non ne vale la pena. No, ma infatti non ne vale la pena. Guarda, io sto arrivando al punto di prendere, adesso vabbè la lascio perché siamo quasi a tempo buono. Però l'anno prossimo a settembre la tolgo. L'anno prossimo a settembre la tolgo e lascio questa qua che sto usando adesso. La tolgo, la conservo e la uso perché sembra così, ma quando c'è vento la notte non i drommimi. Io fra traliccio e antenna e no che bari che vi so ricavati in altra cabicciuga a me. Senti, e fischia un bel. Addirittura. Ti sto dicendo che sembra che ci sono i demoni qua sopra quando c'è vento. Come passa, come c'è il traliccio e lei è, perché non piega, capito? Lei non piega come antenna. Cioè piega a fretta pochissimo, da proprio le frustatine e basta. E sembra proprio, senti nel traliccio, tra traliccio e lei non dormi, proprio ti sveglia, proprio senti un rumore ben forte. Ah, io ho già giù di drum. tu drommi, però gli si inviso dai, hai rubarato a drommene. No, ti sto dicendo adesso non so perché, io senza traliccio questa qua non l'ho mai installata, non so se è per colpa di lei o per colpa del traliccio, però Antu, in pratica a me mi capita proprio sotto la camera da letto il traliccio, proprio sotto la camera da letto, e se esci fuori è ancora peggio. Se esci fuori, io per esempio sono a casa, esco fuori quando c'è vento, no? E da casa al cancello ci sono 30 metri, là se senti il rumore del cancello, senti ushu, ero vazietta, che ha accelerato la cabecchia ed era un traliccio. Secondo me è più il traliccio che lei. E già è lì, già è lì, non ti preoccupare che è lì, perché non piega tu, fa questo effetto qua. E hai pro e anche contro, poi vabbè, da piazzare già è facile, alla fine c'hai il lavoro che hai è prendere e intestare i radiali uno con l'altro, perché poi come canna è uguale alle altre antenne, anzi più semplice, perché addirittura ti fai le misure quando loro te la mandano, no? Ti danno proprio il manuale e ti dicono tutte le misure degli stili, per esempio su che frequenza la vuoi accordare, capito? Quindi ti fai più o meno la misura a terra, te la copi a terra, ti segni, ti metti in asta isolante negli stili e la piazzi così. Il problema è metterla su se hai un tetto diciamo a doppia falda che è spiovente, allora di lì diventa un problema, che pesanti, è un bel pesanti. Ma infatti io un'antenna così non la voglio mettere, io voglio mettere quella senza radiali che viene bene, e pesa, io pesa 3 kg pesa. Sì, questa qui pesa 6 kg. La vostra buca me ne godo, io poi sono sempre stato abbastanza leggero sul tetto. Chi si antenne in bisanti non è che sia molto d'accordo. Antu, l'antenna pesante se cade a terra è un problema. L'antenna pesante se cade a terra è un problema. Vogliono invece i tiranti, almeno 4 tiranti, poi il buono che hanno queste qua che non devi prendere, non devi fare per forza la mezz'onda di palo. Il quarto d'onda, scusa, di palo, di misura di palo, questa qua lavora bene anche con 2 metri di palo, perché ha radiali grandi, però caspita, in centro abitato mettere 4 metri di palo, mettere a lei sopra, già è manna la mantova, se quando vede la mantova è enorme, ti figura di ghiccia. No, io per esempio in città non la piazzerei. Ma perché può succedere di tutto e ne nasce un problema? Non è antenna pubblica, dai, diciamo. Sì, già si può mettere, ma non è che sia molto d'accordo. Guarda, quella che io è leggerissima, cioè la ringo, addirittura è il modello più vecchio, che è ancora più fine. Infatti quando c'è vento piega ma non si sfascia, all'altra piega e ha problemi. Sì. Ce l'ho avuta anch'io la Ringo, guarda la tua come prima antenna. Ce l'ho avuta anch'io la Ringo, la prima serie, appena sono entrato in radio un po' di anni fa, avevo anch'io la Ringo. Poi una maestra latta me l'aveva spezzata e la mia fortuna è stato che è caduta dalla parte come l'ha spezzata, è caduta subito a terra, se faceva altri 2 metri cadeva sulle macchine, e infatti l'avevo tolta.